Hey, so I want to update you in case they kill us all. They are still, for the third day, Jewish settlers are still organizing to go out with weapons and Ehi, voglio uniting aggiornarvi, armies to in go caso out ci in uccidessero Gaza. tutti. Da 3 giorni i coloni ebrei escono They're con le killing armi its e people adesso and si I stanno don't want organizzando any per uscire a people Haifa. arrested, even In 3 giorni though they're 38 defending palestinesi di Haifa their sono stati houses and their arrestati, neighborhoods. nonostante stessero Meanwhile, solo there difendendo were le loro no case e il Jewish loro settlers quartiere. arrested Allo stesso tempo whatsoever that I nessun know colono of. ebreo è stato They did arrestato, per not quanto ne sappiamo. arrest anyone, Non even hanno though they arrestato were nessuno di chanting loro, death nonostante stessero Arabs. cantando morte agli arabi. Un uomo è stato ucciso They vicino a killed Ramallah. a C'è man una foto con soldati near tutti intorno ad Ramallah. un uomo morto There's a nella sua picture with auto. the Non so soldiers esattamente around him cosa on sia his wearing his successo. scar. I Questo don't in know aggiunta what all'attacco a Gaza la happened. notte scorsa. Non so davvero cosa stia In accadendo. addition to the attack on Gaza last night, I don't know what's happening really. Till 2 p.m. and police forces are already in Haifa now. A lot of them. A lot of them. Sono le 2 del Non Arab pomeriggio e people who adesso are le forze protesting dell'ordine sono già a about what's Haifa, happening. They sono are not letting moltissimi. them post or A nessun stand arabo viene from consentito di policing the postare quello roads. che sta The accadendo, soldiers in oppure Yaffa vengono that are cancellati i standing loro in the post. street. Ci sono molti They soldati stopped a my Jaffa, friend and his stazionano father nelle strade e hanno for no fermato mio reason. amico e They suo were just padre senza passing alcuna by ragione, on solo the perché stavano motorcycle. passando di là in An moto. important update. They are attacking Haifa now. Even though Haifa is more calm than yesterday, Un they're aggiornamento attacking importante. Raqqa. Stanno They're attaccando shooting Haifa in on questo momento, anche settlers se a Haifa la using situazione è molto più guns. calma di ieri. They're Stanno attacking attaccando also Kfar Aqqa e ci Kanna, sono colpi di where a lot pistola. of I coloni stanno wounded people sparando. there. Stanno They're attaccando anche again. Kfar Kanna e They're là ci sono molti shooting feriti. E guns right di nuovo now. stanno sparando con le This pistole is the adesso. third night. È la terza Third night notte that che this is queste cose happening, and succedono as e ora soon sono as they're passati all'uso now delle using armi. guns. Ci sono 600 agenti delle There are forze dell'ordine a Haifa 300 e con law tutto questo enforcement potere non riescono a officers controllare i in coloni. Haifa, and Veramente? yet Siete seri? all this Non power and capisco they cosa dobbiamo can't dimostrare control di the più. Non settlers. riesco a crederci. Like, Sto really, provando a are you dimostrare al serious? mondo che ci stanno I don't uccidendo e che understand questo è what uno stato more sionista e you need to fascista che prove. sta I cercando di fare actually, I pulizia am etnica proprio trying to ora. prove to this Non world so that cosa posso fare they di are più killing per us, and mostrare a this is tutti a che questo è Zionist quello che stanno fascist state facendo. that is trying to ethnically cleanse people right now. I don't know what more to do to show everyone that this is what they are doing right now. Literally marking houses Stanno in letteralmente Haifa. They marchiando are le case a marking Haifa, Arab stanno people up marchiando le when case they degli come arabi back. così possono Does venire ad that remind attaccarle. anyone of Non ricorda niente a anything? nessuno questa cosa? I really don't Non capisco understand. davvero Where dove is sono everyone? tutti. Dove sono tutti? Cosa stanno What are they facendo? doing? Sono sicura I'm che sure they sanno, know. I'm sono sure sicura the che i governi governments know sanno that this cosa is sta happening, accadendo e and non ne parlano they neanche are nei not media. even Se volete governed in the ucciderci, media. If you want to mostratelo. kill us, Non avete show it. dignità. Se volete But no, we ucciderci, didn't. ditelo, You want to annunciatelo. kill us? Then say it. Then say it. Then announce it. Coming to fight us with their grenades and with their guns and with their bombs, and then they complain that we are carrying rocks? Really? Sono venuti a They combatterci con cry le loro for some granate, le loro rocks that they're pistole e le loro while bombe they're e si killing us, lamentano se and tiriamo they don't pietre. even have the decency Veramente. to admit Urlano it. che noi tiriamo Share pietre mentre that. loro ci stanno My uccidendo people e are non hanno being nemmeno la dignità di dragged in ammetterlo. the streets, and no Condividetelo. one La is mia doing gente viene uccisa anything. nelle You don't strade e even nessuno know sta what facendo niente. the Nessuno government lo of sa. Jewish Ci sono citizens commenti di is cittadini writing that ebrei they're che too scrivono che dumb and dovrebbero that they will portarci in have to campi di put their concentramento numbers e on us, tatuarci un numero and addosso. E these questi are sono from commenti di conservatives. civili. We're strong and we're gonna keep fighting, but I'm just angry and amazed Noi that siamo forti this e is continueremo a happening right combattere, ma now sono to arrabbiata e my people, sconcertata dal fatto che questo and stia no accadendo one adesso is alla mia stopping gente it. e nessuno lo ferma. But Per favore, share condividete. Se stiamo per and morire, voglio che if we're tutti ci going to vedano die, morire. then Questa non è una America guerra, should questo è un know that. genocidio. This is not a war. This is genocide right now.